io ti rendo un sapore dolce. Tu ridi troppo, tu ridi troppo. Tu che sai tutto di me, la fantasia che in me lascia. Poco non è poesia, l'aria è gesti, le tue mani che non servono a spiegare noi due. Dov'è il rispetto che per te era importante? Il mio risveglio in cui tu parlavi piano, la tua voce quasi esce dalla bocca per effetto di una strana voce.